Sabato 18 alle ore 20 e 25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Rock. Siamo tornati a occuparci di Lou Reed e i suoi mitici Velvet Underground. Nello specifico quest'oggi parlavamo del loro primo album, Velvet Underground e Nico, ma vi chiedevamo di ricordare la celebre copertina firmata Andy Warhol. Forse, come ipotizzato dalla soluzione A, era un barattolo di zuppa della Chambels? No, quella era un'immagine delle opere più famose di Andy Warhol, ma non era la copertina del disco dei Velvet. E allora forse, come ipotizzato dalla soluzione B, era una banana? Beh, qui sì, siamo già più vicini, infatti è la risposta esatta. Tanto celebre la copertina che spesso il disco viene addirittura chiamato come il Banana Album. Sulla copertina non compariva né il nome del gruppo né quello della casa discografica, ma solo la firma di Andy Warhol. Attenzione, perché le prime copie del disco invitavano chi la guardava a sbucciare lentamente e vedere. Nello specifico era Peel Slowly and See. Togliendo un adesivo si poteva vedere una banana rosa shocking. L'album ebbe una notevole sfortuna per la diffusione. La produzione venne fermata e tutti i dischi nei negozi vennero ritirati per l'alto costo della stampa. Addirittura, pensi, era stato progettato un macchinario apposta per costruire queste copertine. Mai prima d'ora un simbolo erotico così esplicito era stato usato per la copertina di un album. Andy Warhol seppe unire sensibilità musicale del Velvet Underground e la sua sensibilità visiva. La trasgressione dei testi alla trasgressione dell'immagine. Mica per caso era un genio il papà della pop art, e quindi Andy Warhol. Direi di sì, e quindi anche la soluzione C, una mucca, era sbagliata. Anche se credo che Andy Warhol sarebbe riuscito a farla sensuale. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. It's all the streets you cross, not so long. Velvet Underground, dal disco citato nel test attitudinale di quest'oggi, il Banana Album. Benvenuti e benvenute nell'ultima mezz'ora di diretta di PBR, puntata 126. Oggi siamo messi male tecnicamente, abbiamo i computer che fanno un po' le bizze e chiedo scusa a quelli che si sono lamentati del taglio di Joy Division, non era voluto, è stata la, ma fa tutta la macchina da solo, noi non ci possiamo fare un granché. Speriamo vada tutto bene in questi prossimi 25 minuti, dove ne sentirete ovviamente ancora delle belle. Reparto donne nude? Ma sì, dai, facciamoci le donne nude. Suonava male detta così, meglio. E Beatles in italiano? Vi va? Restate con noi! Everybody out in ocean, across the USA. Surfing USA. You can be surfing that town. To the county line. Sailing over that Santa Cruz. Up in the Caribbean. All over the Manhattan. In that Caribbean way. Everybody's gone surfing. Surfing USA. Well, I'll be planning out a route. We're gonna take real soon. Waxing down our surfboards. Come al solito, l'orgoglio e il piacere di avere in trasmissione Roberto Fricantoni! Ma cos'è successo? Spadino, non sarà il microfono, lo sento male. Non riesco a capire cosa stai dicendo, sei anche un po' pallido, Frick. Mi preoccupi. Non riesco assolutamente a capire cosa tu stia dicendo. Otuia. Allolip. Bilolap. Spadino, ma sta parlando al contrario. Allolip, al contrario. No, passami un palindromo. Leggi questo, Frick. Ai lati d'Italia. Frick, stai parlando al contrario. Ai lati d'Italia. Otuia. Ed esdusimeso. Oduia, pillola. Pillola, ma qua. Allora, questa qui, tieni. Oduia. Com'è, Free? Come ti senti? Parla. Prova, meglio. Ecco, Free, cos'è successo? Meglio. Stavi parlando al contrario. Non capisco. Com'è possibile? Pallido. Mi avete fatto uno scherzo. No, noi non abbiamo fatto niente. Ma ti è mai capitato? No, è la prima volta, mai successo. Ma è incredibile, parlavi al contrario, una roba demoniaca. Beh, a dire la verità c'è stato un episodio anni fa, ma io non ho mai firmato quel contratto. Col diavolo? Ma era un tipo strano, non so, adesso che mi ci fai pensare, io... Però mai messo la mia firma... Mo. Non so, io mi sono sempre trattenuto dal firmare. Vasco ha firmato, Vasco firmò, io no. Questa cosa dell'inquietante. He's gonna do it. CTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in the ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. Last for Live, Iggy Pop, la sfida agli ascolti è stata lanciata da noi piccoli di Rock FM contro le grandi, e sappiamo bene che per vincere questa dura sfida dovremo giocare sporco, e noi giochiamo sporco, perché siamo rock e possiamo permetterci di farlo. È molto semplice guadagnare ascolti, soprattutto se ci buttiamo una sprizzatina di sesso, perché non delle foto osè alla radio. Qualcuno pensava era impossibile come cosa da fare, invece noi ci crediamo. E allora perché non mostrarvi delle foto osè? Grazie a un vero professionista, Yuri, il camionista di Ravenna, bentornato. Buongiorno a tutti, ciao Ariel. Cioè, professionista nel senso che in qualità di camionista si sa che un po' ne sapete. Sì, è vero. È anche se mia moglie ultimamente mi ha detto che mi fa un passare da maniaco, però dai, speriamo di no. No, speriamo di no. Allora, rispieghiamo il meccanismo molto interessante per il quale quando tu vai a prendere del materiale per il camion, cioè materiale... Sì, materiale di ricambio, comunque se no vai dal carrozziere, vai dall'elettrauto, esatto, dal pompista a mettere a posto la pompa del camion, così... Loro verso gentilmente... Verso fine anno ti omaggiano di calendari, noi abbiamo una pila di calendari sempre alte, che non spiace, dopo iniziamo anche a regalarli in giro, perché non spiace dove metterci e quando ce ne abbiamo. Questo, perdonami Yuri, è l'invidia di tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento. Qualsiasi lavoro facciano loro, a loro nessuno gli ha mai regalato dei calendari osè così. No, poi il bello è che non sono gente conosciuta, sono ragazze normali. Yuri, infatti sapevamo di poter contare su di te, perché questa cosa inizia a piacerci. Non vi facciamo vedere i calendari, quelli lì, delle persone famose che trovate in edicola, noi ci abbiamo quelli proprio seri, da camionista. Esatto. Yuri, da dove arrivava quest'oggi il calendario? Il calendario arriva da una ditta che fornisce pezzi di ricambio per il camion. Ok, e nello specifico che pezzo avevi preso tu così, se ti ricordi? Era un fanale, se non ricordo male. Quindi sì, vedi? Ogni tanto si sbatte. Oh, però sta cosa non mi va bene, perché anch'io ho cambiato i fanali del mio furgoncino, ma non mi è andato il calendario. Ah, ma no, noi ne spendiamo dei soldi durante l'anno. No, hai ragione. Ok, quindi in cambio del fanale il nostro amico carrozziere ti ha dato... Esatto, un calendario che ha dimensioni più grandi delle standard, cioè come larghezza è quasi larga come una porta. Questa cosa è soddisfa? Beh sì. Sì, dai, abbastanza grande. E poi dopo, beh, la foto di oggi, io ho preso sempre il mese di riferimento, che è il mese di novembre, il mese in cui siamo. Sei filologico, Yuri, sì, mi piace. Sì, io vado mese per mese. Praticamente la ragazza è fotografata dalle mutande in su, le gambe sono tagliate. Non Yuri, mi raccomando, Sì, tranquillo. Gambe tagliate. Però già sono tranquillo che c'ha le mutande, sta c'è qua. C'ha le mutande, sì, hanno un paio di mutande bianche. Sì. Poi ha un cappellino, non si capisce se in pelle finta o in plasticaccia nera, ma molto fetish, diciamo. Esatto. E ha una smanicata bianca con delle borchette piccoline sopra il seno con la scritta rock, infatti mi è rimasto impresso di brutto. Questa è una rocker. Esatto, non so se Rock, l'ha scritta e ce l'ha sul seno. Forse Rock non riesco a immaginarmela molto da Rock. Spero di non tuffarmi in un tunnel nel quale non avrei voluto entrare. Non ho capito le borchiette esattamente dove sono. Sono lì sopra. Lì. Sì. Ma sono appoggiate sulla maglietta. Sì, sono tipo applicate sulla maglietta, sono pestine di ferro piccolissime, quelle schiacciate piccoline, non okay. so se presenti. Quindi beh, abbastanza decisamente soft l'immagine di Sì, però la ragazza ha una gomma d'acqua in mano che si bagna la maglietta. Ah, è un classico. Ok. E quando si bagna con la maglietta bagnata si vede penso una quinta. Ah! È tanta la roba che c'è lì davanti. È tanta la roba. Tra l'altro, se non mi sbaglio, dovrebbero essere vere anche queste. Vere anche, esatto. Perché abbiamo detto l'altra volta le differenze vere e finte. Certo che però, scusami. Se sono finte, sono fatte bene. Adesso però, perdonami, non voglio dubitare della tua professionalità, ma intuire se sono vere o finte sotto una maglietta bagnata non è semplicissimo. Lo so, però ti ripeto. E dalla forma? Sì, dalla forma, da come cadono un po', perché quelle finte stanno dritte come... Sì, ho capito. Arrivo. Ho capito. Chi ti chiama, Yuri? Mia moglie. Salutaci tua moglie, ci sentiamo presto. Ciao, Mario. Ciao. Solidarietà dagli studi di Pane, Burro e Rock and Roll alla moglie di Yuri. Vogliamo bene a tutti e due. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm but just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. A wind of a loss of tenil. Wanna have forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. That's right. They call me mellow.

Franco. From the west down to the east, all together. Siamo la frutta. Questa è la fine. Fine della settimana. Buon weekend a tutti. Mi trovate volendolo all'Alcatraz di Milano domani sera, domani notte, per un po' di buon rock and roll in compagnia di Max De Riu. Trovate le riduzioni se siete interessati qua sotto in portineria da Lillo, in via Locatelli 1, 20124 Milano. Fa impazzire questa segnalazione delle riduzioni in portineria. Sigla! Continua così, Freak, che se siamo fortunati, Yoko Ono ti sposa e... pane, burro e rock and roll. E si sciolgono gli Schiantos. E vai, Stefano da Milano. La colazione rock. Uno dei commenti. Pane, burro e rock and roll. Gli altri, come al solito, da signore, li salto. E tu, ma dai. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alle 9 spaccate, qui negli studi con noi Marco Garavelli. Ehi là. In bocca al lupo per il computer. Sì, infatti, oggi, te soltanto una volta ti sia bloccato. Devo dire di sì. L'inizio è stato drammatico, ma dopo solo una volta mi le si nostre è bloccato. Apparecchiature vintage. Tra l'altro, preparati che quando ti si blocca la canzone ti insultano in 50. Oh, so. Perché hai tagliato quel pezzo? È come in discoteca, quando salta il CD la colpa è sempre nostra. Senti, a comprova del fatto che noi di Pane, Burro e Rock and Roll si sia messi male, e va bene, è da contratto che è così, ma che anche quelli che ci ascoltano non sono messi benissimo. A proposito della canzone dei Beatles in italiano, uno scrive: il maestro Frick Antoni, quando canta con un minimo di impegno, assomiglia a Lucio Battisti, non trovate? No. Francamente non molto, però. Buon weekend a tutti, ci si risente lunedì. Ok, ciao. A lunedì prossimo, ciao.